E ora ragazzi, accompagniamo questi giovani simpaticissimi. Ehi Bino, spiegaci un po' come ha fatto una serata live in Riviera. Andiamo, va. Parola al bromuro, della vita non ho mai capito un cazzo, e questo è sicuro. Sono nato per rompere le palle, per sfottere, per polemizzare, per fottere. Non ho doti speciali, devo rincorrere e rompere, perché non c'è spazio mai. Me lo faccio e mi cacciano e mi minacciano. Non rompere il cazzo con sto rappo, ti spacca legna dell'hi-fi. Tutte quelle volte che componi, canzoni che ti buttano faccia giù, tutti i mali che assapori, stomaco chiuso e per di più, sto vivendo nuove sensazioni, con vecchi amici ma senza una crew, io brucio di passione, il peggio non è se stesso, vado, vado fuori, e si vorresti vedermi con la faccia in eccesso, all'eccesso depresso, come vecchi tempi, ma vecchi tempi, non ero me stesso, ho fatto un testo che diceva, non mi fermi più e vi ho ripreso, adesso fermi tutti, parlo dell'essere, e dell'essere compreso, ogni idea che ho, è un culo, ogni rima che faccio, è un culo, ogni faccia che faccio, è un culo, non ho fanculo, ogni idea che ho, un culo, ogni rima che faccio, un culo, ogni faccia che faccio, un culo, mixtape culo. Presentazione mixtape culo ufficiale. Yeah, Minello, mixtape culo.